RadioTube Social Network. Ed eccoci alla seconda ora del nostro RadioTube. La prima è stata molto interessante, me lo dico da sola, no, se, davvero, se avete voglia di sapere qualcosa di più su The Crown, quindi una serie TV davvero molto attesa, sull'ultimo disco di Jovanotti, su Luca Parmitano che ci ha portato con lui nello spazio, insomma sul boom delle mostre dedicate ai grandi del rock, e vi siete persi la prima ora, ci sarà il podcast, nel giro di qualche minuto c'è il podcast su radio24.it e poi c'è la nostra app che è sempre molto molto molto aggiornata. Allora ragazzi, nella seconda ora del nostro RadioTube da quest'anno abbiamo dei co-conduttori d'eccezione a rotazione. Questa settimana ovviamente è uno dei temi più importanti dell'attualità visti dalla rete, sono state le fake news. E io qualche tempo fa avevo ricevuto questo libro che mi aveva incuriosito molto, hashtag io credo alle sirene, come vivere e bene in un mare di fake news, edito da Oepli. Allora ho chiesto all'autore del libro, che è sociologo della comunicazione all'Università di Pavia, ma anche a Didi Story Factory, se, insomma, se aveva piacere a venire da farmi da conduttore in questa seconda ora di RadioTube. Ha detto di sì, e quindi accanto a me oggi c'è Andrea Fontana. Buonasera Andrea. Buonasera Marta, buonasera a tutti. Allora Andrea, è molto scivoloso il tema delle fake news, vedremo come ce la caveremo, soprattutto perché lo so già, arriveranno un sacco di messaggi in cui qualcuno ci criticherà. Allora lo dico, faccio il disclaimer prima: mi interessa capire il meccanismo, mi interessa capire cosa sono, mi interessa capire se esistono, mi interessa capire il nostro meccanismo mentale che ci fa avvicinare e reagire alle fake news. Non mi interessano i partiti politici, qualcuno dirà che stiamo attaccando l'uno o l'altro, non mi interessano. Finito il disclaimer. Però Andrea, partiamo un po' dai video della settimana. Posso, così lo faccio sempre, stuzzicarti un po' sui video della settimana? Allora, a me è piaciuto molto questo. What we're doing, just roasting chicken and having chicken. Trying to roast a chicken, and it was just an amazing surprise. It was so sweet and natural and very romantic. As a matter of fact, I could barely let you una bella sorpresa. Eravamo lì a fare il pollo arrostito e lui è stato romantico, dolce. E Meghan si sposa Harry. Allora, un video che è stato condiviso tantissimo. Forse il fidanzamento perfetto per la rete, no Andrea? Cioè, lo scapolo d'oro ormai quasi ex più ambito dalle 20-30enni del mondo. L'attrice famosa ma non famosissima, molto bella, con un background interessantissimo, che annunciano questo matrimonio perfettamente mediatico. Tutto perfettamente vero, da sembrare quasi finto. Certo, perché poi a me sai cosa è piaciuto molto? Il video, che anche quello è stato diffusissimo subito, in cui loro passeggiano nel giardino e danno semplicemente l'annuncio ufficiale davanti alla telecamera fotografi, e un fotografo dice ci puoi mostrare l'anello? E lei dice certamente, e fa un gesto evidentemente studiatissimo per mostrare a favore di telecamere e fotografi l'anello. Vabbè, è una costruzione di una favola perfetta. Eh sì, siamo al centro di uno dei temi di oggi, quello che stai dicendo, nel senso che tutta la comunicazione contemporanea è un mix prodigioso, fantastico, tra verità e finzione, tra vero e finto. Cioè qui praticamente noi abbiamo una verità che è come The Crown, di cui parlavamo prima, la serie dedicata alla regina Elisabetta, che noi conosciamo attraverso i mezzi di comunicazione tradizionali. Io non vado a bere, come dicevo, il tè con la regina, ma neanche con Harry, quindi non ho il piacere di conoscerli personalmente. Però diciamo persone reali, una favola che riprende però gli stilemi magari anche di quello che ci hanno raccontato da bambini. Sicuramente, ma anche una coppia che non è normale, che però fa e gioca a rappresentarsi come normale, quindi anche questo, certo, il pollo è molto importante, no? E quindi la verità di una coppia reale e regale, mm-hmm, che però finge di fare una vita normale come tutti noi, quindi ancora una volta vero e finto insieme. Questo è un po' il segreto e la formula di tutto oggi. E tra l'altro più tu sembri autentico nella tua finzione, più diventi vero. E beh, mi ricorda anche un certo film di Almodovar che diceva che si è tanto più reali quanto più si assomiglia all'immagine che si ha di se stessi. Però non voglio divagare, perché allora in Italia la coppia regale ha fatto subito scalpore, se ne è parlato tantissimo sui social, ma per poco, perché poi noi abbiamo avuto un'altra coppia che ha subito spazzato i social network, perché un video è stato molto molto più visto di quello di Harry e Meghan. Sono cambiati tanti aspetti, mi sento migliorato, mi sento cresciuto, penso di essere diventato uomo, è stato per me una soglia importante, ho attraversato, guarda, tempeste nella mia mente. E ho combattuto quelle che erano le mie debolezze, le mie fragilità, per cercare di essere una persona migliore. Quindi ho meditato tanto, vi ho sentito, te Stella, ma proprio ogni giorno, ogni istante, ogni momento. E mi è venuta voglia di fare due cose. La prima, quella di provare a regalare un fratellino, una sorellina a Stella. Quindi questo poi ci penseremo, a ciò che va. E la seconda... Mi vuoi sposare? Sì che lo voglio. Sei l'uomo che ho sempre sognato. Ti amo con tutto il mio cuore, ti amo ogni giorno di più. Sei l'uomo con cui voglio stare per sempre, sempre, tutti i giorni del resto della mia vita. Ti amo. Non puoi neanche capire come. Allora, io non capisco che cosa stiano dicendo di là dal vetro Christian Goldoni e Valeria Bernardi, che ridono. Credo che Christian l'abbia trovata forse un po' stucchevole. Non capisco. Sì, ho capito dal tuo body talk che non è proprio un fan di questa scena, Christian. Ma proprio tu che ti sei appena sposato, che dovresti essere nel massimo del romanticismo. E invece Andrea, professor Andrea Fontana, da sociologo... Una costruzione pazzesca. No, è bellissima, questa, eh? Brividi. No, non ascoltiamo quando... Christian Goldoni, che mi è, cioè, neanche un mese di matrimonio mi è già diventato cinico. Guarda, quando lui dice a lei: penso di essere diventato uomo, ho attraversato tempeste, è Shakespeare. Shakespeare è il Grande Fratello. Esatto. Beh, una bella costruzione. Devo dire che i social quella sera lì, io non ero in Italia perché sono stata in vacanza qualche giorno. Chi mi segue sui miei social sa che io sono stata in un posto un po' bizzarro. Sono stata in vacanza in Georgia ed ero in un ristorante di Tbilisi da sola lunedì sera. Vabbè, sono cose strane. E guardavo Twitter e a un certo punto comincio a vedere altro che Harry e Meghan, altro che Harry e Meghan. Hanno fatto furore sui social network Bossari e Filippa Lagerbach al Grande Fratello. Ma questo è normale. Non ho neanche detto i nomi, da tanto ne abbiamo parlato questa settimana. Siamo alla ricerca di storie che incantano e che ci incantano, che non necessariamente devono essere false o vere, ma cariche di significato. Questa è una storia carica di significato. E quindi automaticamente ci attrae e ci coinvolge. Poi... con le declinazioni maschili e femminili del caso. Certo, per cui... io in questo la mia reazione è più maschile forse che femminile. Io non lo so, sono sempre un po' cinica anch'io. Prendo in giro Christian, ma sono cinica anch'io. Ma questa settimana un altro dei video della settimana è un video che a me ha fatto veramente impressione. Io l'ho visto perché ovviamente mi capita di vedere tutti i video che riguardano la cronaca. Ma durante una sentenza sui crimini nella ex Jugoslavia è successo questo. Suci, Slobodan Praljak, nije ratni zločinac, s prijezirom označujem vašu presudu. Stop, please. Please sit down. I have taken poison. Notre client dit qu'il a bu un poison ce matin. Yeah, okay, allora, Slobodan Praljak, ex generale croato, viene condannato a 20 anni di prigione per crimini di guerra nella ex Jugoslavia. Si trova all'Aia, a un certo punto beve da un bicchiere con un'espressione che mi ha congelato e annuncia: ho bevuto del veleno, ho bevuto del cianuro. Era tutto vero, perché lui effettivamente è morto. Questa messa in scena, non nel senso di finzione, ma proprio del mettere in scena la propria morte davanti a tutti gli organi di stampa, davanti alle telecamere, e scena che poi viene moltiplicata all'infinito sui social network e sui video che si diffondono in rete, è qualcosa veramente di inquietante e, Andrea, secondo me anche molto lo specchio dei tempi. Assolutamente, ma ti dirò di più. Tu stavi raccontandoci un tuo sentimento, sai che io ho avuto il sentimento contrario? Cioè, in raccontami. In questo ovviamente... A me ha fatto veramente talmente impressione che non riesco a riguardarla. Sì, sì, ma questo sicuramente, ma quando io l'ho vista la prima volta, invece mi sono chiesto, ma è davvero successo? Perché era messa era in talmente, scena... Sì. Era talmente straordinaria e traumatica come scena che mi sono chiesto se fosse davvero avvenuta, quindi se fosse veramente reale quello che stavo guardando. Anche questo ce la dice lunga sui tempi che stiamo attraversando e quindi come un fatto che accade, in questo caso traumatico, però ha bisogno di una narrazione o di una giustificazione che in qualche modo ci dia un perché questa cosa sia successa. Perché questo è un po' il succo di oggi, di quello che stiamo attraversando, se ci pensi. Se non c'è un video non c'è la verità? No, non tanto questo. La verità può essere attraverso diversi mezzi o strumenti, cartacei, digitali, relazionali, radio, TV, eccetera, o adesso social, web. Il problema è che se non c'è una narrazione non c'è la verità oggi. Nel senso che i fatti non giustificano più le nostre scelte. Allora, accade qualche cosa, un fatto traumatico come questo. Più il fatto è traumatico, più noi abbiamo bisogno di una spiegazione che ci giustifichi come mai è accaduto. Quella spiegazione è un racconto che noi facciamo, che può essere vero oppure falso. Allora, oggi sto continuando a dare la linea alla viabilità in ritardo, ma perché mi perdo in questi discorsi estremamente interessanti. Allora, mi scuso col collega o la collega che sta per darci le notizie del traffico. Informiamoci subito su quello che sta succedendo su strada e autostrada e poi torniamo ancora insieme. Radio Tube Social Network. E siamo ancora insieme per la seconda ora di RadioTube. Ci stiamo addentrando in temi, come sentite, complessi ma molto attuali. E poi il professor Andrea Fontana, sociologo della comunicazione all'Università di Pavia, ma anche di Story Factory, poi mi farò spiegare che cos'è, ci sta raccontando per bene. Professore, però ti sto dando del tu perché altrimenti diventa tutto troppo complesso. Andrea, abbiamo messo sul piatto due termini pesanti, peraltro entrambi in inglese, credo che non abbiano ancora dei veri corrispettivi in italiano, che sono fake news e storytelling. Facciamo una cosa, dedichiamo un blocco alle fake news e un blocco allo storytelling. Partiamo con le fake news. Allora, facciamo un po' di Macedonia con i politici che si sono dedicati al tema delle fake news in questo periodo. Io li ho scelti in maniera assolutamente bipartisan, anzi tripartisan. Andiamo a sentire chi ha parlato di fake news ultimamente. Quindi se Salvini vuole andare dal notaio, già che c'è un viaggio e due servizi, prenda l'impegno di dichiarare come i movimenti che sostengono Noi con Salvini e l'hanno official sui social hanno relazioni non solo con Berlusconi, ma con i 5 Stelle. Perché questo giochino non è un giochino che passa più inosservato. Vi abbiamo sgamato, amici dell'opposizione. Non vi chiediamo di fare alcunché. Vi diciamo che ogni 15 giorni il PD presenterà un rapporto ufficiale sulla rete di tutte le schifezze che troviamo. Le vere fake news sono la stragrande maggioranza dei giornali e dei telegiornali italiani. Ma non abbiamo mai incassato una lira di pubblicità a prova di smentita di chiunque. Figurati te se io vado su Facebook per incassare un centesimo di euro di pubblicità. Io provo a usare Facebook o i social per avere un minimo di voce per contrastare il TG1 e il TG5 e le bufale di regime. Il tema delle fake news è un tema che vede anche il Movimento 5 Stelle impegnato nella lotta alle fake news. Anche io sono vittima di fake news, non solo da false notizie in rete, ma anche a volte false notizie sui quotidiani, sui telegiornali. Quello che io dico è, se c'è il pericolo che questa campagna possa essere inquinata da fake news, anche se mi preoccupa di più il voto di scambio, allora rilancio e dico, invochiamo il controllo dell'OSCE sulle elezioni politiche, come avevo chiesto per la Sicilia, chiediamo all'OSCE di monitorare non solo le operazioni elettorali, ma anche la libertà di stampa e le modalità di informazioni. Allora, Renzi, Salvini, Di Maio, siamo andati a prenderli un po' da tutte le parti dell'arco costituzionale, tutti alle prese con le fake news. Andrea, la mia domanda però, insomma, è molto basica. Cosa c'è di diverso tra le fake news e le classiche balle da bar che ci sono sempre state nella storia? Ma mi verrebbe da dirti tutto e niente, nel senso che ovviamente le balle da bar o le bufale sono sempre esistite, soprattutto appunto in momenti come quelli da bar. Il problema è che oggi le cosiddette bufale possono avere una diffusione, una radicalità estrema con i mezzi che tutti noi stiamo adoperando, e cioè i cosiddetti non tanto social media, ma deep media, cioè i mezzi profondi, vale a dire che ci portiamo addosso. Cioè, più che, in che senso più che social media, deep media? Ormai viviamo con smartphone sul comodino, piuttosto che nel taschino della giacca, piuttosto che in mano, no? Vediamo le persone che camminano e hanno gli smartphone in mano o i tablet. Ecco, questi ormai non sono neanche più social media, sono media di profondità, vale a dire ce li portiamo addosso a letto, sul divano, mentre mangiamo, mentre camminiamo per strada. E quindi una ipotetica bufala può avere una diffusione e una profondità enorme oggi. E toccare pubblici che non sono i quattro amici al bar, ma milioni di persone. Perché a volte rischiamo di credere di più alle fake news che non alle notizie che arrivano da organi di stampa tradizionali? O meglio, abbiamo sentito quello che diceva Salvini: noi usiamo la rete perché non ci dà spazio il telegiornale tradizionale, però nella rete troviamo di tutto. Perché sta avvenendo una cosa interessantissima da un punto di vista antropologico e sociale, cioè noi stiamo rifiutando l'autorità. La stiamo rifiutando a livello politico, a livello mediatico, a livello scientifico anche, no? E quindi il fatto che qualcuno ci dica in che cosa dobbiamo credere, automaticamente noi lo rifiutiamo e anzi diffidiamo, no? Vediamo subito il complotto dietro a quel qualcuno che ci sta dicendo di credere in qualche cosa. Quindi io direi che una delle motivazioni per cui oggi le fake news hanno così tanta presa è una motivazione psicologica e sociale profonda, primo aspetto. Il secondo aspetto è che abbiamo estremamente bisogno di fantastico nelle nostre vite. Fantastico inteso come una dimensione che ci porti via dalla realtà che in qualche modo vediamo non andare oggi. Ci sono tanti disagi, tanti problemi, e quindi siamo sempre alla ricerca di una verità nuova, di una realtà nuova. Anche questo è un altro meccanismo molto importante. Se tu li metti insieme è come se da una parte noi rifiutassimo quello che vediamo e automaticamente, o sentiamo, e automaticamente ci mettiamo alla ricerca di qualche altra verità, di qualche altra realtà. Allora, è un tema estremamente affascinante e molto complesso che ha creato una categoria di persone che si occupano proprio di scovare, sminare le fake news. E noi abbiamo in collegamento proprio uno dei più famosi debunker, sminatori della rete, che è David Puente. David, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, tra l'altro ho scoperto che tu hai questo nome bellissimo perché sei nato in uno dei paesi che più amo al mondo, che è il Venezuela, e questa cosa mi rende molto felice e molto vicina. David, intanto, ti cacci in un sacco di guai facendo debunker, cioè io vedo i commenti al tuo blog, le reazioni ai tuoi post, spesso c'è molto... c'è quasi astio nel momento in cui tu semplicemente dici questa foto non è vera, questo riferimento non è vero, pur essendo una considerazione direi empirica e scientifica in questi casi. Ricevo anche di peggio, in verità. Bene. Però comunque, non voglio concentrarmi su questo, voglio concentrarmi sulla reazione degli utenti. La questione è che vogliono credere in qualcosa. Cioè, il fatto di trovarsi smentite le proprie convinzioni, perché queste persone hanno convinto, comunque sono convinte che esistano determinate cose che vedono online, che gli vengono raccontate, eccetera. Quindi quando tu vai a toccare una loro credenza, una loro convinzione, si arrabbiano. E si arrabbiano e cercano di proteggerla in tutti i modi, magari poi denigrandoti o raccontando ma tanto è verosimile. Esattamente come diceva appunto il professor Fontana, Andrea, cioè vogliono credere, comunque sembra, perché non devo pensare che sia vero? Sì, ma direi che vogliamo credere, mettiamoci dentro, esatto. Anche noi, siamo tutti copartecipi di questa dinamica ormai. Andrea, tu come lavori come debunker? Ti arrivano delle segnalazioni? Sei sollecitato dai tuoi lettori? Andrea o Davide? Scusa Davide, perdonami. Sono... No, tranquilla, no. Non è una fake news. Allora, no, non è una fake news, sono io che ho un po' di problemi con i nomi. Ok, no, allora, dipende. Io ricevo moltissime segnalazioni dagli utenti attraverso la mia pagina Facebook, magari qualche messaggio su Twitter, qualche post in cui vengo taggato e via dicendo. Poi dall'altra parte mi sono fatto, diciamo, un po' furbo, nel senso che cerco di monitorare il più possibile la rete, i siti internet che diffondono normalmente bufalo o quant'altro, e quindi, diciamo, ho un certo monitor che mi individua un po' quelle che sono più virali. Quando diventano virali ci do un occhio e controllo. Poi comunque la maggior parte, ripeto, sono gli utenti che fanno domande e vogliono sapere qualcosa in più. Poi ovviamente ci sono i vari tipi di argomenti, dal più facile al più difficile, magari a volte sto di più, a volte sto di meno. Ci provo, insomma. Allora, una delle cose più affascinanti in questo tema di fake news, al di là di quelle della politica, che sono veramente un mondo infinito, ci sono quelle dei complotti. Prima Andrea Fontana ascoltava l'intervista a Luca Parmitano e poi mi ha detto: guarda, ci sono talmente tanti complotti nello spazio che non si riesce a venirne a capo. Un capitolo del tuo Io credo alle sirene è proprio dedicato alla voglia di credere ai complotti. Perché? Perché l'ipotesi di complotto è rassicurante. Perché il complotto ci piace? Una bellissima domanda. Ci piace perché è uno dei meccanismi che ci attrae rispetto ai contenuti che noi stiamo cercando oggi online, ma anche offline. Solitamente il grande meccanismo è che noi ci mettiamo alla ricerca di qualcosa che risolva dei problemi. Quando troviamo qualcosa che risolve il nostro problema di vita, di lavoro, incominciamo a crederci, e molto spesso ci mettiamo già alla ricerca di questo qualcosa con già un concetto, una credenza preventiva che ci porta a cercarlo. Se qualcuno lo smentisce, scatta quella dinamica che stava dicendo poco fa David, per cui automaticamente pensiamo che ci sia qualcosa che sta complottando per impedirci di raggiungere la nostra verità. David, tu hai parlato anche in questo periodo di chi, diciamolo in maniera molto così terra terra, ci fa i soldi sulle fake news. Ce ne sono di personaggi che fanno soldi sulle fake news, perché è un meccanismo che porta denaro. È il classico follow the money, quindi andiamo a cercare il denaro dove si può raccogliere. Se poi alla fine la diffusione di contenuti di questo genere, che sono di vario tipo, portano denaro e magari poi allo stesso tempo sono favorevoli alle proprie idee di una persona che magari ci crede pure, cioè intendo la persona che condivide questi contenuti, perché no? E di conseguenza abbiamo personaggi che si creano delle vere e proprie reti, fanno delle vere e proprie attività di ingegneria sociale nei gruppi Facebook, nei forum e via dicendo, raccogliendo utenti che poi alla fine diventano inconsciamente dei collaboratori o comunque delle persone che li aiutano a diffondere in maniera abbastanza, diciamo, potente il materiale che diffondono. È giusto che la politica si svegli su questo, cioè purtroppo molti siti collegati all'un partito e anche a un altro, mi sembra che nessuno sia ancora immune, nessuno schieramento è stato ancora immune, Andrea. È giustissimo che la politica se ne occupi, intervenga, perché non esiste ad oggi una legislazione chiara in questo campo, ma è altrettanto giusto e importante che intervenga in modo flessibile. Perché se noi usiamo una mente novecentesca, le regole del Novecento, che pensavano che ci fosse una verità data una volta per tutte da una parte e una falsità dall'altra, a queste dinamiche velocissime e complessissime che mettono insieme vero e finto, non riusciremo mai ad uscirne. Anzi, peggio, probabilmente creeremo una sorta di controstato della verità che ci costringerà a credere in una verità data, e forse non è proprio il miglior servizio per la democrazia. dobbiamo tornare a parlare di questo argomento delle fake news, perché lo si può fare senza accusare Tizio, Caio, Sempronio, non ci interessa, ci interessa capire che, a cosa portano, che cosa le determina e perché ci caschiamo. Dice bene Andrea Fontana, usiamo la seconda persona plurale, ci caschiamo tutti. E intanto ringrazio David Puente, davidpuente.it è il tuo blog, così ti troviamo anche su tutti i social. Grazie per essere stato con noi, buon lavoro David, alla prossima. Grazie, grazie a voi, buon lavoro. Ciao David. Allora, ciao, molto ciao. Molto interessante questo tema, ce ne sarebbe da dire ma tanto che facciamo una pausa e poi cambiamo argomento, perché insomma ce ne sono tanti di argomenti da cuocere sul nostro fornellino questo pomeriggio, ancora per mezz'ora insieme con RadioTube. RadioTube Social Network. Eccoci ancora per l'ultima mezz'ora di questo sabato pomeriggio insieme con RadioTube Social Network e con Andrea Fontana, sociologo della comunicazione all'Università di Pavia, ma tu sei anche amministratore delegato di Story Factory. Cosa fate a Story Factory? Aiutiamo le organizzazioni a raccontarsi meglio. Ah, lo storytelling! Sì. Il famigerato storytelling. Riesci a darmi una definizione, visto che non abbiamo un equivalente in italiano, sì, narrazione, ma di questo storytelling? Certo. Lo storytelling è una disciplina molto evoluta, che è arrivata in Italia da un po' di anni. Oggi molti ne parlano e direi ne straparlano anche, non sapendo bene. Perché tu hai precorso i tempi, sia con le fake news che con lo storytelling, me ne occupo da qualche annetto, sì. E possiamo dire che lo storytelling non significa raccontare storie, mm-hmm. è una traduzione assolutamente sbagliata, ma potremmo dire che, se dovessimo tradurlo, significa comunicare attraverso racconti, okay. che è molto diverso, perché la storia è la tua cronologia, sono nato, fatto, detto, eccetera, mentre il racconto è la rappresentazione significativa che tu puoi costruire su di te. Quindi questo può valere per un prodotto, se io voglio vendere questa bottiglietta che ho in mano e che gli ascoltatori non vedono, racconto una storia che la riguarda e la vendo meglio. Può avvenire per un politico? Per un politico, per le marche, per i progetti, per le iniziative, per noi stessi, perché il problema vero oggi è che lo storytelling è la piattaforma dentro cui noi stiamo operando. Pensa ai nostri canali social. Allora senti qua, perché c'è una serie web che racconta anche di questo. Si intitola Sandro, è la nuova serie web di un gruppo molto molto amato che è Il Terzo Segreto di Satira, e ha debuttato su Dplay, che è la piattaforma online del gruppo Discovery. Allora, un pezzettino di questo Sandro. Chi è Sandro? Ma ascoltiamo qua. Tanti auguri a te. Oggi è il mio compleanno ed è passato esattamente un anno da quando mia moglie mi ha lasciato. Avete capito bene, mi ha lasciato il giorno del mio compleanno. Un desiderio? Cambiare questa vita di merda. The storytelling in United States is an incredible ability to give a horizon, to give an opportunity, to give a strategy, to give a dream. In Italy, racconta una storia means a nightmare. Svegliati, Sandro. Che cazzo sei? Sono il tuo storyteller. Che cosa? Sono l'inizio della tua nuova vita. Allora, Sandro si addormenta guardando Matteo Renzi che spiega lo storyteller means a nightmare, raccontare storie means a nightmare. Si sveglia e ha una sorta di Angelo Custode che è il suo storyteller. Ma cosa fa questo storyteller? Eccolo qua, sempre Sandro. Vedi, a me il latte di mucca fa schifo. Alcuni dicono che faccia male, ma chi se ne frega? A me fa solo schifo. Ma io non dico che mi fa schifo. Faccio tutto il mio bel pistolotto sul fatto che siamo l'unica specie al mondo che beve il latte di mucca dopo lo svezzamento. Ci sono gli ormoni che fa male, piripì, piripò, due stronzate vegane, quattro statistiche e bevo il latte di soia. Sai perché? Perché piace alla figa. A te piace la figa? Sì. Bravo, allora siediti. Vedi? Alla figa piacciono due cose, il latte di soia e lo zenzero. Ma qui il punto non è né lo zenzero né il latte di soia. Senti sta massima. L'importante non è quello che si è o quello che si fa, ma quello che si rappresenta, quello che viene percepito, quello che insomma si racconta. Cheat, anonimo. Detto tra noi, Sandro, tu sei uno sfigato. Beh, mi sembra perfetto. Com'è questo Sandro, Andrea? Bellissimo, meraviglioso. Un perfetto racconto dello storytelling, la favola dello storytelling. Ma com'è venuta questa idea al terzo segreto di satira? Beh, lo chiediamo subito ad Andrea Fadenti. Ciao Andrea. Buongiorno a tutti, buongiorno. Allora, questa volta non mi confondo con i nomi perché sono Andrea e Andrea, quindi vado serena. Andrea, noi stiamo parlando di storytelling in maniera un po' scientifica quasi, ma a voi come è venuto in mente di farla diventare una serie umoristica? Ma infatti quando ho sentito l'inizio un po' mi sono spaventato perché ho detto... Pensavi di essere interrogato in sociologia? No, più che altro ho pensato di far parte di quel gruppo di persone che ne parlavano a sproposito, ma forse abbiamo superato il primo esame. No, diciamo, noi ha divertito molto innanzitutto prendere un personaggio come Sandro appunto al limite, dove onestamente non c'era più niente da fare perché non poteva fare qualche cosa, almeno all'apparenza non avrebbe potuto fare nulla. Sì, non voglio spoilerare, però è tutto nel primo episodio, cioè lui diciamo che si percepisce che è abbastanza un perdente, ecco. Non so come dire, quindi non potendo più fare nulla di pratico, ecco che arriva in soccorso questo angelo custode che gli dice: non hai più nulla da fare, l'unica cosa che puoi fare è sperare di poterla raccontare, detta in parole molto povere. Quindi, insomma, un tempo c'era la fatina di Cenerentola che ti portava al ballo, adesso c'è Francesco Mandelli che ti fa lo storyteller e ti aiuta a raccontare meglio la tua vita. Non è male. Diciamo, il ruolo di Francesco ci è sembrato perfetto, appunto, Francesco, per il ruolo dello storyteller, in quanto appunto persona che almeno noi vedevamo in televisione da tantissimo tempo, è un volto, essendo pur giovanissimo, associato alla televisione da tantissimi anni, quindi ci è sembrato perfetto come angelo custode che si è messo in soccorso di Sandro, che è Massimiliano Ruiz, il nostro attore che lavora con noi da tantissimo tempo. Quindi ci è piaciuta subito l'idea, ci ha fatto molto ridere ed è nata così, e poi associarla, diciamo, a questo modo renziano, se vogliamo, appunto, di raccontare, che è stato totalmente innovativo almeno per la nostra generazione. Forse Berlusconi l'ha fatto in maniera diversa, e quindi comunque sempre storytelling vera, ci ha affascinato molto perché comunque è una pratica che, diciamo, ritorna nonostante gli anni passano, e credo che anche forse di questi tempi non farà altro che aumentare, ecco. Sono sicura. Andrea Fontana, visto che Andrea Fadenti ci ha citato Renzi e Berlusconi, mi viene da dire che con l'ennesima ridiscesa in campo di Berlusconi, lui che ha saputo utilizzare tutti i mezzi di comunicazione molto molto bene negli anni, adesso però è come se si presentasse in un campionato completamente diverso Berlusconi. È tutto cambiato, ma sta cercando di coinvolgere dei pubblici molto specifici, mentre la prima volta, la famosa prima discesa in campo, parlava a tutti, adesso sta parlando a un pubblico molto molto ad hoc, no? Molto scelto. Cioè non si è messo su Instagram a cercare le follower di Chiara Ferragni. In questo momento, se tu badi, sta parlando soprattutto a una generazione molto adulta, ai pensionati, no? Sta cercando di coinvolgere, forse, mi viene da dire, la popolazione che in Italia in questo momento rappresenta ancora un nocciolo molto duro per la politica, che si lascia coinvolgere e che ha bisogno anche di essere coinvolto da un certo tipo di politica. Ecco, lo storytelling. Non si fa niente a caso. Niente a caso. Andrea del Terzo Segreto di Satira, Andrea Fadenti, bella questa idea di una serie web su una piattaforma legata a un gruppo televisivo che ci viene sparata tutta di un colpo, e quindi ce la possiamo godere così anche con un binge watching tutto insieme. Come l'avete presa voi questa decisione? Ma l'abbiamo preso innanzitutto da utenti, nel senso che almeno quando noi guardiamo le serie, banalissime serie americane, tanto per citare le prime che vengono in mente, la voglia di guardarle tutte subito ti viene, quindi questo è stato sicuramente il primo ragionamento. Il secondo ragionamento è stato quello di anche dare, come dire, un giusto valore al web, perché poi tante volte si parla di web e in questo caso è stata la possibilità di fare una serie web con tutti i crismi, quindi facendoci anche entrare nella produzione, quindi è stata una cosa fatta a modo, e per noi questo vuol dire fare un buon web, cioè trattarlo non come una cosa di serie B, se vogliamo, ma trattarlo come un prodotto professionale, che poi è stato quello che è venuto fuori. Quindi poi il media dove va alla fine è rilevante, conta appunto l'approccio che si fa, e siamo contenti di aver potuto fare una serie in questa maniera, insomma. Sono molto, a me è piaciuta molto, mi sono divertita molto. Sono 8 episodi, circa 5 minuti l'uno, qualcosa di più, sì, insomma. Tra i 5 e i 7, diciamo. Sì, tra adesso. I 5 e i 7 mi sono divertita veramente molto a guardare questo Sandro, il terzo segreto di Satira. È una garanzia. Grazie ad Andrea grazie Fadenti voi, per essere mille. Stato con noi. Grazie. Andate su Dplay e guardatevi Sandro. Posso anche dire che Andrea Fontana ha anche scritto Storytelling for Dummies, e quindi se qualcosa... Cioè, oggi sembra una piazzista di libri, no, ma sono tutti interessanti. Se qualcosa vi fosse sfuggito, ne ha dedicato anche un volume esemplificativo, anche perché mi pare, adesso prima di dare la linea al traffico, anche un ottimo spunto di... Per pensare a un lavoro, a una carriera, magari qualche giovane può, secondo me, trovare. Senza dubbio. Ecco, tra l'altro, è una disciplina che si insegna in università a Pavia. L'ha insegnata a Pavia. Sì, sì, abbiamo anche creato un master apposta, perché oggi è una competenza o una serie di competenze molto cercate dalle aziende. Ottimo, ottimo. Viabilità, e poi saremo ancora insieme. Ragazzi, preparatevi, perché ci colleghiamo con una delle persone che mi fanno più impazzire in rete in assoluto, tra poco. Radio Tube Social Network. Allora, siamo ancora con Andrea Fontana, autore di Hashtag Io credo alle sirene, come vivere bene in un mare di fake news per Oepli, ma soprattutto, insomma, si occupa di fake news, anche di storytelling, da molto tempo. Per semplificare, quanti tipi di fake news ci sono? Almeno 4-5, nel senso che ci sono le notizie false, quelle che appunto noi traduciamo come fake news, poi ci sono le notizie deformate, poi ci sono le notizie errate, poi ci sono le notizie nocive e infine le notizie ostili. In realtà quello che noi chiamiamo fake news sono le notizie ostili che attaccano una reputazione personale aziendale. Tutto il resto è intrattenimento. Ok, io sai che però conosco un altro tipo di fake news. Dimmi. Allora, ti faccio sentire un pochino per entrare in atmosfera di questo video, però attenzione, è molto hot. L'orologio ticchettò e la giovane donna corse nella sua stanza seguita dal marito. I bambini dormivano da lustri e dalla tenda la luce della luna inondava la stanza coniugale. Entrambi nudi, entrambi si guardano fino al toccarsi. Ragazzi, la però qua forse stiamo un po' esagerando, perché diventa troppo hot questo video. È la descrizione di un momento molto molto a luci rosse, fatta in un video, in una pagina web che ha 700.000 follower. È una delle più amate d'Italia, ma soprattutto tutti noi abbiamo amici o amiche che via WhatsApp, sto perdendo la voce, amici o amiche che via WhatsApp ci mandano gli aggiornamenti delle pagine del signor Distruggere, e noi abbiamo al telefono il signor Distruggere in persona, Vincenzo Maisto. Buonasera Vincenzo. Buonasera. Ho un po' paura perché tu sei cattivissimo e ho un me po' paura. Sempre in radio. Ecco, che lo sai che fai paura. Allora, spieghiamo un po' cos'è il signor Distruggere per quei due italiani che non lo sapessero. Tu sei un collettore di segnalazioni dei tuoi, aspetta, com'è che li chiami, distruggini? Dei distruggini sì. Che ti mandano screenshot, schermate esilaranti presi dai vari gruppi della rete. Gruppi di mamme, le famose mamme pancine, che si scambiano consigli. Quelli sono i più famosi di tutti. Ad esempio, posso leggerne una molto carina, l'ultima, certo, che hai postato, perché veramente è un dilemma molto... Okay. Allora, mammucche, un'emergenza. Sono sposata da 4 anni e ieri a mio marito è uscito un herpes sulle labbra. Non lo aveva mai avuto e prima mi ha detto che gli capita da quando è piccolo. So che la malattia del bacio e io non lo tengo, però questa mattina la signora vedova della porta accanto ne aveva uno, ma ha quasi 70 anni. Che devo pensare? Coincidenze? No, critiche, sono solo preoccupata. Allora, cosa rispondono? Una sì, è la malattia del bacio, ti esce quando baci una persona infetta e quindi mi dispiace dirtelo, ti ha tradita. Non so se con la signora della porta accanto, però. E un'altra risponde: le signore di una certa età sono tremende, comunque si nascondono dietro il loro essere false vedove. Ragazzi, dopo le false vedove, io direi chiudiamo internet, perché le false vedove, cioè Vincenzo. Ma tu, non lo so, effettivamente mi viene a volte da dire, ma non sei troppo cattivo a volte? Perché ti ma fa... No, alla fine noi facciamo un servizio sociale, socialmente utile. Tu vai... Sì. No, io non vado in nessun posto. No, no, io so che tu non sei iscritto in nessun gruppo, ovviamente. Nessuno, nessuno. Uno del liceo, ma non fa test. No, esatto. Spero che tu non fai gli screenshot di quelli del liceo. No, assolutamente. E... Allora, anche perché hanno vite abbastanza tristi, quindi non avrei nulla da, nulla da condividere. Io adoro questo. Sono l'unico single e senza figli, quindi... Adoro quest'uomo, fantastico. Ti mandano queste segnalazioni prese dai gruppi... più impresentabili. Allora sì, la pagina esiste dal 2011 e ha affrontato una lunga serie di argomenti, andando dai terapeutisti ai complottisti, degli attentati. Andrea, ce li abbiamo tutti questi. I nazi vegani, i bigotti, e nell'ultimo annetto stiamo parlando delle mammine pancine e le abbiamo scoperte perché esistono su Facebook decine e centinaia di pagine pubbliche e di gruppi aperti, chiusi e segreti dove si parla di questo argomento, dove c'è l'estremismo materno in tutte le sue forme. Queste pagine vengono utilizzate come una sorta di consultorio dove le signore contattano l'amministratrice per chiedere un consiglio in anonimo e i risultati sono spesso esilaranti, quindi noi consigli medici, psicologici. E poi c'è un'alterazione della realtà, c'è un universo distopico dove il consiglio che poi viene dato è quasi sempre ancora più assurdo del quesito stesso. Quindi è praticamente le mammine pancine di oggi sono quelle che negli anni 90 chiedevano consigli alla posta del SOE. Esatto, esatto. Per fare un parallelismo con gli anni 90 che abbiamo vissuto tutti. Vincenzo, che impressione ti fa il fatto che ormai mammine pancine sia un'espressione di uso comune? Cioè c'è sempre qualcuno che tira fuori, ah beh, quella è una pancina. Ma alla fine è diventato una sorta di sinonimo di una mamma magari un po' ignorantella, apprensiva, bigotta, superstiziosa, ovviamente anche maschilista e misogina, cioè tutta una serie di un corollario non indifferente di elementi spregiativi. E c'è qualcuno che si è risentito, c'è una signora che ha una casa editrice che vende libri per mamme, evidentemente aveva in procinto di far uscire un libro che si chiamasse proprio Pancine qualcosa, quindi visto che non avrebbe mercato, ha pensato bene di attaccarmi per farmi sapere tutto il suo sprezzo in questa mia missione. Tanto tu hai firmato per una casa editrice molto importante, chi se ne frega, l'ho appena letto su tuo Facebook. La possiamo nominare? Ah, nominiamola. Ho firmato con Rizzoli, la cosa che però mi fa gioia è che Rizzoli mi ha cercato e contattato prima del boom degli ultimi mesi di distruggere. Fantastico, quindi, dai. Diciamo che il boom è servito magari soltanto in fase contrattuale a farmi permettere di alzare la cresta e fare un po' più la voce grossa, però... Fortunatamente non mi potranno dire ti hanno contattato perché ora sei famoso. No, mi hanno contattato quando non mi considerava nessuno, quindi la considero una piccola vittoria. Beh, fantastico. Senti, posso leggerne un'altra? Allora, vorrei certo. Leggere quelle hot, ma dai, non è ancora l'orario. Allora, posso chiedere al gruppo se anche a voi i cani vi seguono quando avete i giorni bruni? Io per non bloccare tutto uso solo le salviettine umidificate ammorbidenti, ma intorno a casa mia ci sono sempre cani randaggi che mi seguono. Per favore ditemi che succede anche a voi. E una risponde, i cani sentono i sentimenti. Quindi, con ragazzi... una cinquantina di like a commento. Esatto. Ma la critica che viene spesso sollevata è che queste storie possono essere dei fake. E ovviamente, visto che le amministratrici di questi gruppi mi odiano tutte, ma per una cosa logica, praticamente le pagine con molti follower condividono, oltre a questa posta del SOE, condividono anche i loro siti internet con i banner pubblicitari. Quindi se i miei follower vanno a criticare le loro iscritte, le iscritte cadono, di conseguenza perdono click. Vabbè, ma sia tu sia, torniamo sempre allo stesso argomento. Mamma mia, Vincenzo, grazie per essere stato con noi. Non è cattivo il signor Distruggere, allora sono contenta, non è cattivo. Grazie Vincenzo e complimenti, a presto. Ciao. Ciao Vincenzo. Allora, abbiamo solo il tempo per salutare. Salutiamo anche tutte le pancine che ci stiamo ascoltando. Per chi non le conoscesse, andasse a vedere il gruppo Facebook del signor Distruggere, che è straordinario. Grazie ad Andrea Fontana. Ricordo, hashtag io credo alle sirene, come vivere bene in un mare di fake news. Dobbiamo salutare, finito il nostro tempo. Grazie Andrea. Noi grazie, al Marta. Prossimo sabato.